I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Per la prima volta a luglio le vendite del Made in Italy sui mercati internazionali hanno segnato il massimo di sempre, superando in un solo mese la soglia dei 40 miliardi di euro. È il sesto aumento consecutivo che porta l'Italia anche davanti alla Germania, con un aumento dello 6,3%, uno 0,1% in più rispetto a Berlino. È una buona notizia, naturalmente, si va ad aggiungere alle altre che stanno in questi giorni componendo un quadro che dà conto dello scongelamento dell'Italia sul fronte dell'economia. Il dato dell'Expo però è maggiormente importante perché dà conto di una modifica in atto nei mercati di sbocco. Se infatti Germania e Francia, che sono tradizionalmente i due mercati di afflusso per le merci italiane, hanno segnato solo un modesto più 2%, sono gli Stati Uniti ad aver registrato un più 22,9%, una cifra record. E il mercato americano ormai vale il 9% delle nostre esportazioni totali, mentre solo l'anno scorso contava per il 7,5%. La nuova corrente atlantica è alimentata dalla debolezza dell'euro sul dollaro, che da un lato fa lievitare gli incassi in valuta europea e dall'altro consente per chi esporta di avere margini per gli sconti sui listini in modo da consolidare i volumi di vendita negli States. Decisiva è la presenza italoamericana della nuova FCA, che da sola ha garantito oltre un terzo dei 4,6 miliardi di ordini aggiuntivi registrati nei primi 7 mesi dell'anno. Nonostante il rallentamento, resiste anche la Cina, con un aumento del 3,8%, mentre è catastrofico il risultato verso la Russia, calata di quasi 35 punti per effetto della politica dell'embargo europeo e delle contromisure di Mosca. La più colpita è l'auto, con un calo del 91%, ma ci sono interi distretti industriali, come quello della calzatura di Fermo, che soffrono del blocco degli acquisti di Mosca. Da segnalare infine il balzo delle commesse in Turchia e in India e l'affacciarsi di nuovi mercati europei in Belgio e Spagna, ormai due paesi di tutto rilievo per lo sbocco del Made in Italy. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. La Fed, la banca centrale americana, ha quindi rinunciato ad aumentare i tassi USA. Lo ha fatto per due ragioni. La prima è che l'inflazione anche negli Stati Uniti resta molto bassa. La seconda ragione, forse la più importante, è il timore che la frenata dell'economia cinese e degli altri paesi emergenti possa compromettere anche la ripresa americana. Così un aumento dei tassi USA rischiava di determinare un forte afflusso di capitale verso gli Stati Uniti dai paesi emergenti, aumentando ancora di più le loro difficoltà. Bene, ma come hanno reagito oggi i mercati a questa decisione? Ci si aspettava che le borse avrebbero gradito il nuovo rinvio, invece non è stato così. Tutte le borse europee, anche Wall Street, sono in calo, forse perché la decisione della Fed conferma le preoccupazioni sullo stato di salute dell'economia emergenti, il che ha spaventato gli operatori. Più prevedibili invece le altre conseguenze legate alla scelta della Fed. Innanzitutto, e questa è una buona notizia in chiave di conti pubblici, con i rendimenti dei titoli di Stato che oggi sono in calo, e poi con gli effetti sul mercato dei cambi. In questo caso il rinvio della stretta sui tassi ha determinato il rafforzamento dell'euro sul dollaro, con la divisa americana più debole che è tornata sopra la soglia di 1,14. In questo caso però non si tratta proprio di una buona notizia per il nostro export, che rischia di essere penalizzato da un euro un po' più forte. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.